Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio e Ave Maria e un santo pomeriggio a tutti. Siamo ormai addirittura d'arrivo sul nostro lunghissimo percorso sui 10 comandamenti che ci ha praticamente accompagnato per un anno, ho visto. Siamo alla 52esima, credo, puntata, quindi sono 52 settimane in tutto l'anno e tra oggi e la prossima puntata dovremmo esaurire questo lungo discorso che ci ha accompagnato, ecco, dentro il Decalogo. Abbiamo la volta scorsa terminato l'analisi del nono comandamento, oggi con l'aiuto del Signore cominceremo il decimo, che forse riusciremo ad esaurire o al massimo ci porterà la puntata seguente. Ultima tappa del nostro cammino. Ora, il decimo comandamento, come il nono era una sorta di corollario interiore, diciamo così, del sesto comandamento, così il decimo comandamento è il corollario del settimo comandamento, no? Che ci esortava, anzi ci prescriveva, come tutti sanno, di non rubare. Ecco, il decimo comandamento recita testualmente non desiderare la roba da altri. Quindi, intendendo chiaramente con ciò, anzitutto, come vedemmo a suo tempo, il denaro e i beni cosiddetti di fortuna del prossimo, ossia i beni materiali, ma anche i beni morali, io posso, morali diciamo tra virgolette, cioè che hanno in qualche modo a che fare con l'aspetto materiale della vita o con i risvolti materiali di alcune cose, ma e sono principalmente di natura non prettamente fisico-materiale, insomma, no? Per esempio, io posso invidiare e quindi desiderare il posto di lavoro di una persona, la posizione sociale che occupa un altro, il prestigio, una certa carica, un onore che ha, no? Quindi tutta quanta una serie di cose che possono essere appunto oggetto di desiderio anche forte da parte dell'uomo, no? Una notazione comune su questi due ultimi comandamenti la potremmo sintetizzare con queste parole, che non basta non fare il male, bisogna anche non desiderare di farlo. E per non fare il male noi dobbiamo esercitare una vigilanza su noi stessi che parta appunto dai nostri desideri. E prima che dai nostri desideri, come diceva già il buon Marco Aurelio, filosofo romano della media stoa, stoico, fare molta attenzione alla porta attraverso cui, diciamo così, entrano i desideri nel nostro cuore, oppure, se preferite, alla miccia con cui certi desideri possono accendersi, che sono gli occhi, perché l'uomo ordinariamente desidera ciò che vede. Ecco, e quindi, come abbiamo già visto parlando del nono comandamento e del sesto, se io guardo un'immagine in se stessa, come dire, oscena, a parte il fatto che molti moralisti dicono che se l'immagine è assolutamente oscena, quindi è, diciamo, di per se stessa atta a eccitare strane pulsioni, solo guardarla fermandoci lo sguardo è già sufficiente per fare un peccato grave. Comunque è indubbio che rappresenti un'occasione ultra prossima di peccato, no? E così noi dobbiamo fare anche un pochino attenzione a non soffermare volontariamente il pensiero e anche se del caso lo sguardo, perché alcune cose, insomma, se uno gira con la Ferrari, evidentemente attira gli sguardi di chi lo incrocia, ecco, e potrebbe anche attirare i desideri malsani di chi lo incrocia, no? Proprio appunto di chi, invidiando quella condizione, comincia a concepire un desiderio morboso nei confronti magari di un bene di lusso come una Ferrari, e voi capite che da questo desiderio concepito poi si può passare a molto oltre, quindi non avendo i soldi posso mettermi in testa di andare a rubare per procurarmeli, oppure andare a fare i debiti, tutta quanta una serie di situazioni che se avessi controllato il pensiero originante non sarebbero poi successe. Ecco, questo è un principio generale a cui dobbiamo prestare somma attenzione. Ora, linea di massima, partiamo come sempre dal Nuovo Testamento, e come già parlammo a suo tempo, qui si va un pochino alla radice di ciò che già costituisce di per sé stesso un problema. Ecco, mentre cioè, in questo comandamento sono coinvolti, diciamo così, due possibili vizi capitali. Chissà se forse poi un giorno faremo anche un ciclo di catechesi dedicate ai vizi capitali, che sono uno l'invidia, indubbiamente, e secondo però anche la cupidigia, che si distingue un pochino dall'avarizia, perché appunto la cupidigia è la brama, è il desiderio smodato e disordinato di denaro e di beni di fortuna. Quindi è proprio ciò che costituisce l'oggetto, i filosofi e i teologi classici direbbero formale, di questo comandamento. Leggiamo nella prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo queste illuminanti considerazioni. Non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Espressione molto forte questa. Per il suo sfrenato desiderio, alcuni hanno, guardate, deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori. Quindi è un problema serio, è un problema grosso, questo. San Paolo usa un'espressione molto molto forte, radice di tutti i mali, l'attaccamento al denaro. E lo sfrenato desiderio di denaro ha comportato la deviazione dalla fede, qui intende perdita della fede, apostasia dalla fede. E si sono da se stessi tormentati con molti dolori, con tutti gli annessi e connessi che questo comporta. Ecco perché la brama, quando diventa forte, comporta delle sofferenze molto grandi, perché fino a quando non si riesce a soddisfare il desiderio materiale che si ha, si soffre, si sta male, si escogitano tante modalità, tanti escamotage. Tanti modi per cercare di ottenere quello che si vuole o per cercare di far soldi facili. A me mi è capitato, ragazzi e ragazze carissimi, di venire a conoscenza, ahimè, di persone che passano le giornate e i pomeriggi interi davanti al computer a vedere gli andamenti dei titoli di borsa perché hanno fatto investimenti pericolosi e rischiosi. Quindi, voi se uno può accampare, insomma, in questo modo, no? Nei Vangeli si leggono espressioni che consentono ulteriormente di meditare un po' su quanto già evidenziato da San Paolo. Per esempio, San Giovanni Battista, quando gli chiesero i suoi ascoltatori, insomma, che cosa dovessero fare per convertirsi, insomma, per ottemperare ai moniti alla conversione rivolti loro con estrema energia dal precursore, ad alcuni San Giovanni rispose: non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Vedete che c'è questo minimo comune denominatore tra questi due brani biblici, no? L'accontentarsi, il contentarsi. Contentarsi cosa significa? Allora, dentro un orizzonte di fede, seguitemi un attimo, ragazzi e ragazze carissime, come dicono tra l'altro altri brani della scrittura, l'abbondanza o la ricchezza, o la non abbondanza e la non ricchezza, quindi un tenore di vita un po' più basso, o anche addirittura la povertà, povertà è da intendere non come indigenza, vengono dal Signore. Allora, che significa? Significa, La ricchezza e l'abbondanza dei beni, cristianamente parlando, dentro un'ottica di fede, non può essere vissuta semplicemente come una condizione di privilegio, cioè io ho un sacco di soldi, così posso fare la bella vita e posso godermela. Perché contro questo tipo di mentalità c'è un'altra famosa parabola del Vangelo, che è quella dell'uomo stolto. Vi ricordate quando Gesù racconta di quest'uomo che aveva accumulato, accumulato, accumulato un sacco di beni, dicendo: ah, adesso finalmente ce ne abbiamo abbastanza per goderci la vita, adesso andiamo in pensione, mangia, bevi e datti alla gioia. E gli viene detto: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesto conto della tua anima. E tutta questa roba che hai accumulato, di chi sarà? Capite? Quindi l'avere tanti soldi dentro un orizzonte o tanti beni non è assolutamente, come dire, ah, quello si può godere la vita. No. Cari miei, ricordiamo i discorsi che abbiamo fatto a suo tempo a proposito del settimo comandamento. C'è il principio di destinazione universale dei beni, ecco, attenzione, che non è, come dire, formulato dal Padre Eterno, non è da lui presentato agli uomini tramite le imposizioni proletarie o l'esproprio proletario tipico dei comunisti, no? Quindi i comunisti che dicevano: ci sono sperequazioni e ingiustizie sociali, allora bisogna livellare tutti quanti. Quindi, si toglie ai ricchi per dare ai poveri. Sto semplificando, stiamo sempre in sede di catechesi, no? E questo è lo Stato comunista e questo è obbligatorio. Salvo poi che nelle attuazioni storiche, come io ironizzo sempre, questo era vero per tutto, tranne che per i membri supremi del partito, che potevano comunque avere un tenore di vita di gran lunga superiore, ecco, al resto del popolo dei compagni, no? Come sovente accade, no? Chiusa parentesi ironica, il Padre Eterno non agisce in questo modo, ma il Padre Eterno vuole che chi ha di più, liberamente e spontaneamente, nella consapevolezza di essere stato onorato da Dio della responsabilità di ben amministrare i beni che ha ricevuto, ne faccia equamente parte con chi è privo del necessario e comunque usi quei beni. Bene, ecco, non per sbafare, per abbuffarsi, per darsi al lusso o alla bella vita, o peggio ancora al peccato e al vizio, che sono le motivazioni per cui la stragrande maggioranza degli uomini desiderano soldi e beni. Perché? Per divertirsi e per fare la bella vita. Questo è il motivo per cui un sacco di gente desidera i beni. Ecco, però fare la bella vita in questo senso non è cosa lecita a un figlio di Dio, eh? Non dobbiamo dimenticare queste. Cioè, se tu sei miliardario, il Signore non ti ha dato i miliardi, come dire, per andarti a comprare la villa con piscina alle Canarie. Adesso è la prima cosa che mi viene in mente. Ti ha dato i miliardi perché tu possa asciugare tante lacrime con quei miliardi che tu non hai, perché a causa della situazione difficile che c'è in questo mondo, ferma restando la liceità della proprietà privata, ma a causa della cattiveria di tanti uomini si creano delle situazioni oggettive di sperequazione, quindi di chi non ha nulla e di chi ha troppo. Allora, chi da Dio è stato onorato di avere molto, lo è stato fatto perché in base a quel monto lui eserciti la virtù della carità e usi quei beni, come dice il Vangelo, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, cioè per amministrarli direttamente per poter entrare in paradiso e per far elevare inni di grazia e di benedizione a coloro che hanno di meno e che saranno edificati e aiutati dalla carità spontanea, garbata, allegra e operosa di chi ha di più. Allora, nella nostra dimensione cristiana, gli alti posti non sono da desiderare, di nessun tipo, di nessuno. Tu devi andare in un altro posto, in un alto posto, soltanto se Dio ti prende e ti ci mette. Se Dio ti prende e ti ci mette, ci devi andare, perché vuol dire che Dio ti dà la fiducia e con tutti i rischi annessi e connessi. Io vi racconto la mia personale vicenda. Io quando stavo in discernimento, più di qualche volta, come dire, ho avuto paura, ma non per i sacrifici, tra virgolette, che poi non sono sacrifici connessi alla vita sacerdotale, ma perché sentivo fortemente, dico, secondo me, se io andassi in monastero a pregare, a fare vita ritirata, avrei molte meno responsabilità che non quante ne ha un prete in cura d'anime. Cioè, che ha delle persone affidate, che confessa, e questa è una cosa che è vera. Pensate a un prete che diventa vescovo. Io ogni tanto mi chiedo, dico, ma mica ci sarà un prete tanto matto che desidera una cosa di questo genere? Cioè, diventare vescovo è un aumento ancora più grande di responsabilità davanti a Dio, perché Dio ti chiede conto di tutte le anime della diocesi. Tu devi stare molto attento a quello che fai. Più ben altro, diventare papa poi non ne parliamo proprio, per dire, no? Così, se tu sei ricco, stai attento perché il Padre Eterno ti chiederà conto fino all'ultimo centesimo di quello che tu hai fatto con quei soldi, perché non ti ha dato quei soldi per metterteli in tasca e per darti la bella vita. Ci sono altri, per esempio, ragazzi che desiderano diventare mistici, no? Ah, io vorrei tanto diventare, vedere la Madonna, entrare in estasi, avere il ravvimento, vedere Gesù. Tutti i maestri di spirito da sempre, con dottrina costante e assoluta, inoppugnabile, hanno sempre detto che è peccato desiderare cose di questo genere. Perché? Perché quando Dio, se voi studiate e vi leggete le vite dei santi e dei mistici, se Dio ti dà dei doni mistici, qui tu vedi la Madonna, parli con l'angelo custode, fai qualunque cosa del genere, Dio non ti dà quelle cose perché tu, come dire, sei la mosca bianca, sei il figlio di papà, che a differenza degli altri comuni mortali che vivono una vita nella fede, qualcuno di voi ha mai visto il Padre Eterno? No, noi andiamo a messa e dobbiamo fare sempre uno sforzo per ricordarci che Gesù è presente nell'Eucaristia. Allora ci sarebbe questa classe di non si sa per qual motivo privilegiati, che a partire da questo mondo vedono la Madonna tutti i giorni, vedono Gesù Cristo e si godono tutte quante queste cose, che noi invece andremo in paradiso, sorse, e le godremo chissà quando. E perché mai una cosa di questo genere? Attenzione, se uno studia le vite dei santi, non c'è nessun santo o mistico autentico, perché quelli fasulli non sono così, e questo è uno dei criteri di riconoscimento di quelli fasulli, dai quelli non fasulli, che non abbia delle croci e delle prove spaventose, terribili. Cioè, se Dio ti dà grazie straordinarie, cioè se tu se ti parla in estasi o ti dà una grande grazia, ti chiederà poi delle croci grandissime che non chiede a un comune mortale, povero peccatore come chi vi sta parlando, che le visioni e le estasi non ce l'ha. Perché quella sovrabbondanza di grazia e di gioia che tu ricevi da questa esperienza soprannaturale non la ricevi per godere ingiustamente prima del tempo di ciò che i tuoi fratelli godranno tutti quanti alla fine, ma la ricevi perché la missione, la volontà che Dio ha su di te è grave, è severa, è forte e quindi richiede un surplus di grazia per poter essere messa in pratica. Allora, capite perché i santi dicono non devi desiderare mai le visioni mistiche? Perché desiderare la visione mistica vuol dire al tempo stesso offrirsi al Padre Eterno per grandi sofferenze. Ora, se un mistico si azzarda, e uso volontariamente questo termine, a non fare la volontà di Dio, a non prendersi tutte le croci, a non fare tutte le penitenze, avete visto quante penitenze fanno i santi? A volte terribili, cruenti, ma loro le devono fare, eh? Noi comuni mortali non possiamo fare quelle penitenze che fanno lì perché moriremmo. Ma loro hanno ricevuto tanto. A chi molto fu dato, dice Gesù nel Vangelo, molto sarà chiesto. Quindi, oppure quelli che vogliono andare al governo, vogliono andare in Parlamento e magari si comportano male e fanno i finti atei. Guardate ragazzi che questo io desidero che ne siate coscienti. Il libro della Sapienza dice che ogni potere viene dal Signore. e che su coloro che governano, andate a leggere i primi capitoli del libro della Sapienza, sovrasta un'indagine rigorosa. Tu puoi anche essere di SEL, di Sinistra e Libertà, d'accordo? E dici: io sono ateo, non ci credo nel Padre Eterno, ma il Padre Eterno che tu non credi in lui, non gliene importa assolutamente nulla. Quando quello di SEL muore, anche se non ci crede, si trova davanti al Padre Eterno. E il Padre Eterno gli dirà: ateo o non ateo, a me non mi interessa nulla. Cosa hai fatto tu quando stai nel Parlamento? Hai dato la vita al servizio dei cittadini? Hai fatto leggi giuste? O ti sei fatto gli affari tuoi? Perché se ti sei fatto gli affari tuoi, mo so affari tuoi. Io sto semplificando, che chiaramente Dio non è che si esprime in questo modo, no? Però sto cercando di far passare un concetto. Quindi vuoi andare a fare il politico? Accomodati pure. Ma stai attento, stai, perché se puoi sfuggire alla giustizia umana, anche alla giustizia, quella dell'aula giudiziaria, se fai qualche reato e la fai franca, o alla giustizia, come dire, politica, cioè che si accorgono di qualche marachella che hai fatto e poi non ti danno più voti, e qualcuno magari può ingannare anche gli elettori per anni o per decenni, ma il Padre Eterno non lo inganni. E tu non sei stato messo lassù per farti gli affari tuoi, figlio mio. E se non ne sei consapevole, fa nulla, perché comunque sui grandi sovrasta un'indagine rigorosa. Quindi capite che ogni situazione di eccellenza, eccellenza vuol dire tu stai in una posizione superiore rispetto alla media, comporta delle responsabilità enormi davanti al Padre Eterno. Per cui, come non bisogna desiderare di essere mistici, come non bisogna desiderare di essere il capo del governo, a meno che Dio non ti ci porti e non ti faccia capire chiaramente queste cose. Come non bisogna desiderare di essere preti, o di essere meno che mai vescovi, o di essere meno che mai cardinali o papi, e qui gli ultimi papi, tutti, anche Benedetto, non soltanto l'ultimo, hanno sempre stigmatizzato il carrierismo ecclesiastico. Io mi sono sempre chiesto come fa a succedere una cosa di questo genere, cioè. Come può dentro la capoccia di un ministro, se ne parlano, dire qualcuno lo fa questa cosa qui? Ma che te carrieristi? Ma se tu diventi cardinale, ma insomma, ti rendi conto delle responsabilità che ti prendi davanti al Padre Eterno? Tu non puoi mica fare il cardinale mediocre, dovrai essere un grande cardinale, perché il cardinale sta vestito di rosso perché è il segno del sangue pronto in ogni momento ad essere versato per la causa del Vangelo. E quel sangue lo devi versare, se non lo versi materialmente, lo versi spiritualmente, con una vita di assoluta carità, dedizione e fedeltà. Scusate, quindi che te carrierizzi? Tu vuoi diventare ricco, desideri la roba degli altri, e vuoi diventare ricco per che cosa? Per farti le vacanze al mare, per comprarti il jet privato? Non lo so, per togliere tutti quanti gli sfizi della vita, per andare a mangiare nei ristoranti di lusso, perché vuoi diventare ricco? Se diventi ricco, sappi che, tolto quello che è necessario per le necessità della vita, per carità, ha anche proporzionato il tuo stato sociale, alla posizione che occupi, al lavoro che fai, tutto quello che vuoi, il resto tu lo devi amministrare rettamente. Se no, il Padre Eterno ti fa correre quando ti trovi davanti a lui, perché il Padre Eterno dice: io non ti ho dato queste cose per impinguarti, io ti ho dato questo di più perché ti ho dato fiducia, ti ho ritenuto capace di amministrare equamente, secondo giustizia e carità, i beni di cui io sono il padrone e di cui ti ho costituito, parabole evangeliche, come amministratore. Quindi non desiderare di avere tanti soldi, perché se ce li dovessi avere, mentre se tu hai un povero stipendio da operaio, come dire, e da persona moderatamente onesta, il Signore ti chiederà se ne hai fatto uso buono o cattivo e se hai fatto almeno un pochino di elemosina, che tutti devono farlo, anche la vedova importuna ha messo uno spicciolo dentro il tesoro. Se diventi un riccone, molto più ti chiederà il nostro Signore. Io non so se ci conviene tanto trovarsi dinanzi a Lui a rendere conto di queste cose. Sono le 17, ragazzi e ragazze carissime, una piccola pausa per salutare la Madonna con l'Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, fatte queste premesse, dobbiamo quindi evidenziare come insieme al settimo comandamento, quest'ultimo decimo comandamento, ovviamente, insegna il retto e ordinato uso dei beni della terra. Retto e ordinato vuol dire uso dei beni della terra in maniera conforme alla volontà di Dio, rimandando all'aureo consiglio evangelico della povertà, che è e rimane un consiglio evangelico eccellente, perché la povertà è la scelta di vivere in forma radicale il necessario distacco che tutti devono avere dalle ricchezze. Nessuno di noi vuole essere attaccato ai soldi se vuole essere figlio di Dio, nessuno. E attenzione che nessuno può e deve dare per scontato, l'ho anche detto recentemente in un altro intervento, sempre su questa radio, in un altro programma. Nessuno può dare questo per scontato, perché io lo vedo, di queste cose bisogna darne la dimostrazione, eh? Quanti soldi dai in elemosina? Punto interrogativo. Pensate un pochino, ragazzi, io mi ricordo quando ricevevamo le nostre comitive di giovani, purtroppo c'erano quelli che avevano l'etichetta del tirchio, che non è una cosa buona. Allora, cioè, quando gli sta tutti quanti insieme, mica può essere, insomma, che io, perdonatemi, sto parlando del giorno, vado sempre a scrocco. Perché se vado sempre a scrocco vuol dire che sono un taccagno, vuol dire che sono uno spiloccio, vuol dire che sono un tirchio. E questa non è una cosa buona. Ma io non c'ho mai una lira in tasca perché qua siamo una famiglia povera, non fa niente, una volta tanto, quando uno va a prendere tre caffè costano 2 euro. 2 euro e mezzo se costano tanto, cioè è il segno, è il gesto. Guardate che l'avarizia, come tutti i vizi capitali, non voglio parlare di quello, è radicato dentro di noi. Quindi nessuno di noi nasce senza questa tendenza, anzi, nasciamo tutti quanti con questa tendenza. Quindi la povertà volontaria cos'è? È la guerra dichiarata a questa cattiva tendenza. Quindi io rinuncio alle ricchezze, quindi ad avere più del necessario e realmente mi accontento del necessario per vivere, punto e stop. E questo generalmente è il corollario della vita consacrata. Però ripeto, l'atteggiamento interiore di distacco deve essere proprio di tutti. Ok? Ricordando che la ricchezza, come abbiamo già visto nel settimo comandamento, ed anche la proprietà privata, in quanto tali non sono mali o cose in se stesse disordinate davanti a Dio. Per cui ripeto che non è assolutamente corretto identificare i ricchi con i cattivi e i poveri con i buoni, perché ci sono alcuni ricchi che sono buoni e alcuni poveri che sono cattivi, perfidi anzi, invidiosi, che hanno un'invidia proprio che li corrode e che se li mangia. Il cosiddetto pauperismo, attenzione agli ismi, anche se qualcuno su Facebook mi dice che non tutti gli ismi sono negativi, ma gli ismi sono tutti negativi. Perché quando dietro una parola tu ci metti il sofismo ismo, vuol dire che fai di un valore un assoluto. E nella vita terrena ha anche di un valore, cioè anche di una cosa positiva, ma un valore, voi capite sempre che è una parte rispetto al tutto. Allora, se io divento pauperista, vuol dire che di questi principi che abbiamo affermato e che sono tutti sacrosanti, io ne faccio un assoluto. E giungo a dire, sono anche quelli lì, c'è stato nel corso della storia della Chiesa, no? Che hanno fatto della castità e della verginità un assoluto. La verginità non è affatto un assoluto, perché la verginità è da vivere, come dire, in maniera assoluta per coloro che sono chiamati. Ma per coloro che sono chiamati al matrimonio, la verginità non è un valore assoluto. La castità sì, ma la verginità no. Perché devono sposarsi. Pensate ai genitori di Santa Caterina da Siena che non si fossero sposati. Tra l'altro Santa Caterina da Siena è stata la 24esima, non mi ricordo, o addirittura la 25esima figlia. Scusate. Se la virginità fosse un valore assoluto, la razza umana si estinguerebbe se tutti facessero questa cosa. Eppure ci sono stati dei matti nel corso della storia della Chiesa che, enfatizzando in maniera eccessiva questo discorso, dicevano che chi si sposa fa almeno peccato veniale. Pensate, almeno peccato veniale, eh? Quindi qualcuno dice pure che chi si sposa faceva un peccato mortale ipso facto. E nel Nuovo Testamento troviamo, non mi ricordo se nelle lettere di San Paolo o di San Pietro, mi ricordo bene l'espressione: verranno falsi maestri che insegneranno dottrine perniciose e proibiranno il matrimonio, c'è cioè proprio scritto. E così sono stati i pauperisti, in altre circostanze ho detto, nel Medioevo si sono salvati solo San Domenico e San Francesco, ma se uno studia la storia della Chiesa di quel periodo, tutti gli altri cosiddetti movimenti mendicanti sono tutti caduti nel pauperismo, tutti. E sono diventati tutti quanti eretici, sono stati tutti quanti scomunicati, tutti. I Valdesi, soltanto qualche, i Catari, gli Albigesi, soltanto per dirne qualcuno. Tutti scomunicati. Perché non si può fare di questa realtà un assoluto, quindi dire soltanto chi rinuncia effettivamente ai beni di questo mondo e vive in situazione di povertà volontaria effettiva può essere gradito a Dio. Mentre gli altri sono tutti quanti, per il fatto stesso di non essere poveri, sgraditi al Padre Eterno. Stare attenti che questa mentalità io adesso la comincio a sentir circolare in giro, eh. Anche travisando, perché si tratta sempre di travisazioni, alcune cose che adesso sono tornate in auge dentro la Chiesa. Ecco. Quindi sembra che soltanto se uno fa gesti di povertà estrema diventa buono. Ma chi l'ha detto questo? Chi lo ha detto? Quando in altre circostanze ho detto che il miglior amico di Gesù era un ricco sfondato, perché Lazzaro di Teofilo, l'ho detto tante volte, figlio del governatore della Siria, era ricco sfondato, per quanto possiamo sapere. Basta andare in Terra Santa e vedere i resti della sua casa di Betania, la tomba dove è stato seppellito, più alcuni dati che ci vengono dal Vangelo, la sorella Maria che aveva rotto un vasetto di alabastro contenente un profumo dal valore di 300 denari. 300 denari era quasi un anno di stipendio. Perché un denaro era la paga di un operaio per una giornata. Quindi se uno può permettersi il lusso di rompere una boccetta di profumo per spargerlo sui piedi e sul capo di Gesù, vuol dire che gli avanzano. E Giuda gliel'ha anche fatto notare. Cos'è tutto questo spreco? Ecco. Che poi non è spreco quando è fatto per amore di Gesù, come lui sottolinea, no? Ecco, quindi i ricchi andranno in paradiso se prendono atto della responsabilità che il Padre Eterno gli ha dato e liberamente, senza i soviet che ti puntano il fucile alle spalle, perché Dio ama chi dona con gioia, dice San Paolo, assumendo la propria responsabilità davanti a Dio, amministrano rettamente e correttamente i beni che gli sono stati dati. E punto. Ecco, d'accordo, quindi vi prego su questo di essere attenti, perché ripeto, in questi ultimi 40 anni voi sapete che c'è stata una grande piaga molto diffusa in America Latina, soprattutto in Brasile, più negli anni passati che in questi, però adesso se ne parla di meno, ma quello che mi dicono, io ho conosciuto un po' di sacri ministri, per esempio brasiliani, adesso se ne parla di meno perché questa mentalità pauperista è praticamente diventata assolutamente diffusa dappertutto e viene data come cosa assolutamente pacifica. Quindi cosa hanno fatto questi teologi della liberazione? Questi praticamente unilateralizzando, fraintendendo o addirittura strumentalizzando alcuni passaggi scritturistici, oltre che a esaltare in maniera eccessiva la povertà materiale, quasi che la povertà materiale fosse un bene, ma la povertà materiale non è un bene. La povertà materiale di per sé stessa è un male, non un bene. Andate a chiedere alla gente che si muore di fame e che non riesce ad arrivare alla fine del mese se quello è un bene oppure un male. Ma scusiamo. È venuta però nelle posizioni estreme addirittura a giustificare la lotta armata dei poveri contro i ricchi. E addirittura, è come dire, ponendo queste posizioni assolutamente estranee al cristianesimo, perché il cristianesimo non fa nessuna rivoluzione armata. Capito? Noi abbiamo come maestro Gesù. Gesù è morto in croce, fratelli e sorelle e gentilissimi ascoltatori. Non ha ammazzato nessuno lui. Non ha combattuto per rovesciare le situazioni di ingiustizie. Quelli che combattevano ai suoi tempi per rovesciare le situazioni di ingiustizia erano gli zeloti. E sembra che zelota fosse Barabba, e sembra che zeloti fossero i due cosiddetti ladroni, ma ladroni non erano. Perché come Barabba erano stati arrestati per una sommossa e per un omicidio, ci dice il Vangelo di San Giovanni. Voi sapete che ai tempi di Gesù la Palestina era dominata dai romani, come quasi tutto l'orbe conosciuto. I romani non è che ci andavano franchi, i romani, guardate che i romani se non rigavi dritto ti facevano camminare con le stampelle, ti facevano rimpiangere di essere nato i romani se non rigavi dritto con loro. Io ho studiato il diritto romano. C'era poco da scherzare con la ferrea lex romana, eh? Ma Gesù non ha mai predicato la rivoluzione, mai? Non ha mai predicato neanche la. Dice, è lecito che paghiamo tributo a Cesare? Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Gesù non ha mai assunto posizioni, come dire, di contestazione frontale, violenta, meno che mai di contestazione armata, mai? È vero, ma questo è un discorso distinto, che in alcune circostanze, secondo la dottrina cattolica, è possibile ricorrere alle armi per difendersi in alcune circostanze, eccetera, no? Ecco, però lo stile non può mai essere questo, a meno che mai, cioè, perché lo stile della rivolta armata, della rivoluzione proletaria, è stato, come dire, predicato da ben altre dottrine. Che con il cristianesimo, che ne abbia detto qualcuno, non hanno proprio niente a che fare. Quindi non si fa nessuna lotta dei poveri contro i ricchi, nessuna lotta armata di classe, ponendola sotto l'egida di nostro Signore, che rappresenterebbe il loro grande liberatore contro le ingiuste oppressioni da parte dei ricchi, facoltosi e potenti. Non è così. Fermo restando che le situazioni di ingiustizia, le situazioni di sperequazione vanno comunque denunciate, sempre con le armi della parola però, come cose sommamente sgradite dinanzi a Dio. L'oppressione dei poveri l'abbiamo visto precedentemente, è peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. La frode del giusto salario agli operai è peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, senza dubbio. Quindi attenzione, ripeto, a tutti gli ismi, a tutti, perché teniamo sempre presente che la parte rispetto al tutto è sempre una parte. E sotto questo punto di vista, insieme alle tante sciocchezze, tantissime che ha detto, un celebre aforisma di George William Friedrich Hegel è, se correttamente interpretato, non se interpretato esattamente come lui lo intendeva, cioè dentro la sua peculiare dialettica, il vero è sempre l'intero. Per cui guardate, vi prego ragazzi di ascoltarmi, specialmente i giovani tendono, io sono stato giovane, perché adesso sto diventando vecchierello. Però i giovani tendono ad avere questo, è proprio della gioventù, cioè prendono a sposare una posizione e vedere soltanto quella. Non va bene questo qui. Perché insieme alla povertà c'è anche il valore della retta amministrazione dei beni, insieme alla verginità c'è anche il valore della famiglia santa, d'accordo? Insieme al sacerdozio santo c'è il valore della famiglia santa, insieme al coraggio che è doveroso, però c'è anche la virtù della prudenza, sono tutte quante cose che dobbiamo sempre tenere insieme, capite? Insieme alla liberalità, che è la giusta tendenza ad aiutare anche materialmente. E chi è indigente c'è anche il doveroso discernimento, perché io non posso dare i miei soldi ad una onlus che so per certo che se li mette in tasca e che non li amministra bene. Ecco, è ovvio che non posso ogni volta che devo fare un'elemosina mettermi a fare Sherlock Holmes e andare a controllare, no? Però c'è anche un sacco di gente che dice, ma devo dare l'elemosina quando trovo qualcuno per strada oppure no? La risposta, a mio avviso, adeguata è: guardalo bene in faccia, cerca un attimo di capire, no? Se ti viene vicino, quante volte è successo anche a me nelle stazioni, per esempio, nelle stazioni dei treni, ti viene vicino un maschiotto di 18-20 anni, con dei modi un pochino così e con gli occhi un pochino lucidi e con una faccia un po' poco rassicurante e ti dice: padre, mi dai qualche spiccio? Ma secondo voi che ci deve fare con quei soldi spicci? Quasi certamente deve comprarsi una dose, se non deve comprarsi una dose deve farsi un bicchierino. E io i soldi spicci sinceramente non glieli do, anche se ce li ho. Capite? Non vi sto dicendo che non bisogna fare l'elemosina, no? Se vedo per strada invece un barbone, palesemente tale, a volte mi è successo, senza un braccio, senza una gamba, quello va sempre aiutato. E se puoi, non gli dare 50 centesimi, dagli 5 euro a quello. Quindi, non so se, perché dobbiamo stare attenti, no? Ci stanno i classici casi da scuola. San Tommaso mi pare che dicesse in una questione, dice: guarda, tu immagina, tu c'è un tuo amico che ti ha dato la sua spada, hanno detto: guarda, tienimela un po'. Dopodiché questo tuo amico litiga ferocemente con una persona e arriva a casa tua tutto traferato e mi dice: dammi subito la mia spada che devo andare a ammazzare quello. Secondo voi cosa bisogna fare? Gliela deve dare la spada quello lì, oppure fa peccato di appropriazione indebita, si tiene una cosa non sua, non restituisce un bene a chi viene a fare legittima richiesta. Allora, bisogna sempre avere, ragazzi e ragazze carissimi, tanto discernimento, anche nel fare il bene. Come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, frase aurea che dobbiamo sempre ricordare: non basta fare il bene, ma bisogna farlo bene. Ora, fermo restando che il pauperismo non va bene, ecco, però, se la Divina Provvidenza ha fatto un comandamento che giunge fino al cuore per ammonirti sul pericolo della cupidigia dei beni di questo mondo, è un motivo che ci deve stare. Quindi vuol dire che i beni di questo mondo, cioè il denaro, i beni materiali e alcuni beni morali, soprattutto il successo, il prestigio, il potere e l'onore, in alcuni casi, pensate insomma ad alcune note organizzazioni non proprio a scopo onlus, ecco, ma abbastanza che hanno un senso altissimo dell'onore, quindi vuol dire che rappresentano, attenzione, nello stato di natura decaduta in cui si trova l'uomo dopo la colpa d'origine. Ecco, invito chi può e volesse approfondire ad ascoltare le omelie che ho fatto domenica durante la festa dell'Immacolata Concezione. Cioè, noi abbiamo un problema grosso, che è il peccato originale. Il peccato originale lascia in noi delle conseguenze indelebili, tra cui soprattutto la concupiscenza. La concupiscenza vuol dire il desiderio non moderato dalla legge di Dio, che si manifesta soprattutto esattamente nell'oggetto del nono e del decimo comandamento del Decalogo, cioè nei confronti dei beni venerei e nei confronti dei beni materiali. Quindi purtroppo la nostra natura è tendente a fare un uso malsano di questi beni. Quindi, da un punto di vista oggettivo, in relazione alla condizione soggettiva dell'uomo dopo il peccato originale, che è diventato debole e vulnerabile su questi aspetti, vuoi capire che questi beni, che sono e rimangono in se stessi beni, però costituiscono un pericolo vero e reale. In che senso? Nel senso che l'uomo, se non fa estrema attenzione, non esercita una grande vigilanza, non prega e non si fa aiutare dalla divina grazia, può trasformarli, e purtroppo spessissimo lo fa, da fini, scusate, da mezzi a fini, cercando quindi di, attenzione, servirsene per vivere e cominciando a vivere per servirli. Non per servirsene. Vi ricordate cosa dice Gesù quando parla? Nessuno può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, o si attaccherà uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e il denaro. Quindi il denaro può diventare un padrone che si serve in maniera assolutamente tirannica, cioè prendere il posto di Dio. Cosa vuol dire prendere il posto di Dio? Vuol dire che diventa la molla e il fine di tutte le tue azioni e di tutte le tue intenzioni. Allora, voi sapete che un'anima buona, un'anima di fede e che ha una vita cristiana decente, anche se non ci sta attualmente pensando, cioè se sta facendo una cosa, la fa fondamentalmente per amore di Dio. Cioè, se io adesso sto facendo qui un incontro, un intervento a Radio Buon Consiglio, lo faccio perché le suore me l'hanno chiesto. E lo faccio perché, non essendo una cosa che mi sono andato a cercare e trattando comunque di argomenti che riguardano la fede, penso e spero che queste parole possano fare del bene a qualcuno. Ma del bene a qualcuno non perché poi dice quanto è bravo Dottor Leonardo, ma perché cresca nella fede e nell'amore al Padre Eterno. Anche se io, non, prima di che inizi la trasmissione, non dico al Signore come sarebbe preferibile, ti offro, Signore, questo tempo che sto dedicando e fa che possa andare tutto bene per la tua gloria, però la motivazione di fondo del mio agire, se uno mi chiedesse, ma tu perché hai fatto questa cosa? Dico, perché l'ho fatta? L'ho fatta perché mi sembra la volontà di Dio. L'ho fatta per amore suo, perché spero, a meno che non mi sia completamente impazzito, che la mia giornata in linea di massima voglia essere spesa per questa intenzione. Certo, purtroppo, come i maestri di spirito ci fanno notare, le nostre intenzioni sono molto imperfette, per cui è possibile che io certamente sto agendo per amore di Dio, ma magari ci posso mettere un po' di vanità, ahimè. E quindi cercare un po' il consenso, l'applauso. Spero di non farlo, mi fanno ribrezzo queste cose, le contrasto quando ne prendo coscienza, ma non posso superbamente escludere a priori che siano del tutto aliene. Desidero che non ci siano, se me ne dovessi accorgere cerco di fare degli atti contrari, però potrebbero esserci. Però in linea di massima sto agendo per altri motivi. Se uno è attaccato ai soldi, non va a fare la trasmissione su Radio Buon Consiglio, non perché io non sia attaccato, perché tutti lo siamo. Ma se uno attacca i soldi, io vado a fare la trasmissione su Radio Buon Consiglio, se mi pagano. E se mi pagano pure bene, d'accordo? Perché una persona, cioè nelle radio comuni, se uno va a fare una trasmissione, quanto mi dai? E se non mi paghi abbastanza, io la trasmissione la vengo a fare. Allora, è ovvio che quello sta facendo quella trasmissione per soldi. Adesso non voglio fare, cioè, perdonatemi, ci ho messo io di mezzo, però per farvi capire, cioè, allora, una persona che è attaccata al denaro, provate, cioè, fate uno screening, in ogni cosa comincia a pensare, che ci guadagno, che ci perdo, quanto costa, quanto non costa, dalla mattina alla sera, oppure, come guadagno di più, come ci faccio di più, come risparmio di più, come risparmio di meno. Quale divertimento più bello faccio? È così. Quindi, perché la divinità, cioè Dio, l'idea di Dio nella nostra vita, ecco perché io dico sempre che non esistono gli atei, esistono Esistono quelli che non credono che il Padre Eterno è Gesù Cristo o comunque un essere trascendente. Ma guardate che tutti noi abbiamo un Dio nella nostra vita. Bisogna soltanto dargli un nome. Chi ha come Dio il denaro, tutto quello che fa lo fa in funzione di questo Dio. Chi ha come Dio il sesso, tutto quello che fa lo fa in funzione di questo Dio. Chi ha come Dio il sesso non guarda, cioè quando si guarda in giro, qualunque cosa veda, la filtra come possibile prossima o remota possibilità di procacciarsi un piacere sessuale, punto. E così è. E non pensa altro da mattina alla sera. Allora, queste cose, il successo, il potere, dice, quanta gente è attaccata in maniera morbosa alle poltrone, al prestigio, a diventare qualcuno, io sono qualcuno, persona stimata e riverita, oppure il successo. Cosa conta oggi? Qual è il dio dei mezzi di comunicazione? È lo share. È lo share. E il dio di internet, quali sono? Sono le visite. Quanto è visitato il sito? Quanto è visitato il canale? Quanto è visitato il blog? Il successo. Allora, il problema non è in queste realtà, ma è in come ci si rapporta ad essi e nell'uso che se ne fa. E quindi quelle parole forti di Gesù, una l'ho citata, non potete servire Dio il denaro, non potete servire Dio e Mammona, la frase famosa e celebre che disse al giovane ricco, no? È più facile che un cammello entri per la cruna di un agro che un ricco entri nel regno dei cieli, sono da intendere in questo senso, cioè attenzione, perché quando tocchi queste materie, tocchi materia incandescente, per cui gestirle in maniera distaccata è difficile, ci vuole la grazia, ci vuole una grande operazione di impegno ascetico su noi stessi. Pensate a quante volte i beni di questo mondo sono occasione di divisione, diventano somme sciagure. Invidie, odio, divisioni, discordie tra fratelli, nelle famiglie, liti ereditarie, a volte omicidi, furti, attività illecite, immoralità, disonestà, è altro che radice di tutti i mali. Fratelli che non si sono parlati per lustri, per motivi ereditari, è morto uno, non è andato quell'altro al funerale, per quattro soldi. Quindi capite che dobbiamo fare attenzione, eh? Quindi l'unico modo per combattere e difendersi è sanare alla luce del Vangelo e con l'aiuto della grazia le cattive radici da cui questi mali possono pululare. Queste cattive radici si trovano nel cuore dell'uomo, non nelle cose in se stesse. Quindi è un problema di risanamento del cuore. La prossima volta, se Dio vorrà, cercheremo, ecco, di esaminare un po' bene, queste piaghe profonde del cuore, concludendo anche il discorso sul decalogo e su quest'ultimo aspetto, individuando terapie o medicine atte a intervenire per curare queste piaghe purulente e assai pericolose. A tutti do la mia benedizione, ci sentiamo, se credete, martedì della settimana prossima. Ave Maria.